Oltre gli abeti, il viottolo digradava in una piccola radura assolata, dove un ponte di legno scavalcava un ruscello. Seguiva poi lo splendore di una faggeta illuminata dal sole, dove l'aria era simile a un liquore trasparente e dorato, le foglie fresche e verdi e il suolo un mosaico di tremula luce solare. E poi altri ciliegi selvatici, una valletta di flessuosi abeti e una collina così ripida che le ragazze arrivarono in cima trafelate. Ma quando vi furono giunte e uscirono all'aperto, le attendeva la più deliziosa sorpresa del mondo. Oltre la collina si stendevano i campi situati dietro le ultime fattorie sulla strada alta per Carmody. Proprio davanti a una di esse, contornato da faggi e abeti, ma aperto a sud, c'era un giardino, o almeno quello che un tempo era stato un giardino. Lo circondava un muretto di pietra, diroccato, tutto coperto di erba e muschio. Lungo il lato a est correva un filare di ciliegi, bianchi come la neve ammucchiata dal vento. Vi erano ancora tracce di vecchi vialetti e al centro una doppia fila di cespugli di rose. Tutto il resto dello spazio era un lenzuolo di narcisi bianchi e gialli in piena fioritura. Una profusione di fiori leggeri che ondeggiavano al vento al di sopra di un verde tappeto d'erba. Che vista incantevole! Gridarono all'unisono tre ragazze. Anna si limitò a sgranare gli occhi in un silenzio che diceva ancora più delle parole. Come mai esisteva un giardino proprio qui? Chiese Priscilla, ancora in preda alla meraviglia. Ah, deve essere il giardino di Esther Gray, disse Diana. Ne ho sentito parlare dalla mamma, ma non l'avevo mai visto e non pensavo che esistesse ancora. Conosci la sua storia, Anna? No, ma il nome mi suona familiare. Oh, l'hai sicuramente visto al cimitero. Esther Gray è sepolta laggiù, nell'angolo dei pioppi. Sai, quella piccola lapide scura sulla quale è scolpito un cancello che si apre e dove si legge Sacra alla memoria di Esther Gray dall'età di 22 anni. Jordan Gray è sepolto proprio accanto a lei, ma non ha lapide. È strano che Marilla non te ne abbia mai parlato. A dire la verità, è successo 30 anni fa e tutti ormai hanno dimenticato. Beh, se esiste una storia dobbiamo ascoltarla, disse Anna. Sediamoci qui tra i narcisi e Diana ce la racconterà. Oh, ragazze, quanti narcisi! Ce ne sono a centinaia! Sono cresciuti dappertutto! Sembra che il giardino sia coperto da un tappeto di chiaro di luna e di luce di sole uniti insieme. Valeva la pena di scoprire un posto come questo. E pensare che da 6 anni vivo a 1 chilometro da qui, non l'avevo mai visto. Su, Diana, racconta. Tanti anni fa, cominciò Diana, questa fattoria apparteneva al vecchio David Gray. Non viveva qui, ma dove vive Silas Sloane. Aveva un figlio, Jordan. Un inverno, questi andò a Boston a lavorare e lì si innamorò di una ragazza che si chiamava Hester Murray. Esther lavorava in un grande magazzino e non le piaceva. Era cresciuta in campagna e il suo unico desiderio era di ritornarvi. Quando Jordan le chiese di sposarlo, disse di sì. L'avrebbe sposato purché la conducesse lontano, in un luogo tranquillo, dove non si vedessero altro che alberi e campi. Sicché lui la condusse ad Avonlea. La signora Linde disse che lui corse un grosso rischio sposando una Yankee. E quel che è certo è che Esther era molto delicata e non era l'ideale delle massaie. Ma dice la mamma che era graziosissima e dolce e che Jordan venerava il suolo dove posava i piedi. Ebbene, il signor Gray diede a Jordan questa fattoria ed egli vi costruì là dentro una casetta dove Jordan ed Esther vissero insieme per 4 anni. Lei non usciva quasi mai e nessuno veniva a trovarla tranne la mamma e la signora Linde. Jordan piantò per lei questo giardino e lei ne andava pazza e vi passava la maggior parte del tempo. Non era granché come massaia, ma ci sapeva fare con i fiori. Poi si ammalò. Mamma dice che forse era già malata di tisi prima di venire qui. Non fu mai veramente costretta a letto, ma continuò a diventare sempre più debole. Giorda non volle nessun aiuto, fece tutto da solo e mamma dice che era tenero e gentile come una donna. Ogni giorno la avvolgeva in uno scialle, la portava fuori in giardino e lei se ne restava là, felice, su una panchina. Dicono che facesse inginocchiare Jordan accanto a lei ogni sera e ogni mattina a pregare perché quando fosse venuta la sua ora le fosse concesso di morire nel suo giardino. E la sua preghiera fu esaudita. Un giorno Jordan la portò fino alla panchina, raccolse tutte le rose che erano sbocciate e gliele pose in grembo. Lei alzò il capo, gli sorrise e poi chiuse gli occhi. E così, concluse Diana a bassa voce, Esther morì. Che storia tenera e triste, sospirò Anna asciugandosi le lacrime. E che ne fu di Jordan? Chiese Priscilla. Dopo la morte di Esther vendette la fattoria e tornò a Boston. Il signor Jabez Sloane acquistò la fattoria e costruì la casa sulla strada. Una decina di anni dopo anche Jordan morì. Fu portato ad Avonlea e sepolto al fianco di Esther. Non riesco a capire come Esther potesse desiderare di vivere qui, lontana da tutto e da tutti, disse Jane. Oh, io lo capisco benissimo, fece Anna pensierosa. A me non piacerebbe vivere così per sempre, perché anche se amo la campagna e i boschi, amo anche la gente, ma nel caso di Esther posso capirla. Era nauseata dal frastuono della grande città, dal viavai della folla, dalla gente. Qui non importava nulla di lei. Voleva evadere da tutto ciò e trovare un posto tranquillo, verde, un posto amico, dove riposare. Ha avuto quel che voleva, il che, a parer mio, è una cosa che riesce a pochi. Ha avuto 4 splendidi anni prima di morire. 4 anni di gioia perfetta. Perciò, credo che la si debba invidiare, piuttosto che rimpiangere. E poi chiudere gli occhi e addormentarsi tra le rose con l'uomo che ami vicino a te e che ti sorride. Oh, credo che sia stato bello. Volle piantare quei ciliegi laggiù, continuò Diana. Confessò alla mamma che non sarebbe vissuta tanto da mangiarne i frutti, ma che le piaceva pensare che qualcosa che avrebbe piantato sarebbe sopravvissuto dopo la sua morte e avrebbe continuato a rendere bello il mondo. Sono così felice che siamo passate di qui, disse Anna, con gli occhi che scintillavano. È il mio compleanno di adozione, sapete, e questo giardino e la sua storia sono un regalo per il compleanno. Ti ha mai detto tua madre com'era Esther Gray fisicamente? No, mi ha detto solo che era carina. Mi ha fatto piacere. Così posso immaginarmela come voglio, senza essere intralciata dalla realtà. Immagino che fosse piccola, leggera, con i capelli neri, morbidi e ondulati, con grandi occhi dolci e timidi, color marrone, e un visino pallido e triste. Le ragazze lasciarono i loro canestri nel giardino di Esther e passarono il resto del pomeriggio a scorrazzare nei boschi e nei campi all'intorno, scoprendo una quantità di deliziosi cantucci e di viottoli. Quando si sentirono affamate, fecero colazione nel posto più grazioso, sull'argine ripido di un ruscello gorgogliante, dove le betulle bianche si innalzavano tra ciuffi d'erba lunga e piumosa. Le ragazze si misero a sedere sulle radici e fecero onore alle ghiottonerie di Anna. Perfino i poco poetici panini furono molto apprezzati da quei gagliardi non viziati appetiti, stuzzicati dal moto fatto e dall'aria fresca. Anna aveva portato dei bicchieri e della limonata per le sue ospiti, ma dal canto suo beve la fresca acqua del ruscello, da una specie di coppa ricavata dalla corteccia di betulla. La coppa faceva acqua e l'acqua sapeva di terra, come accade di solito all'acqua dei ruscelli in primavera, ma Anna pensò che fosse più adatta per la circostanza di quanto fosse la limonata. Guardate, avete visto quella poesia? Disse all'improvviso, additando qualcosa. Poesia? E dove mai? Jane e Diana spalancarono gli occhi come aspettando di vedere caratteri runici e rime disegnarsi tra i rami delle betulle. Laggiù nel ruscello, quel vecchio tronco d'albero verde muschio, con l'acqua che vi scorre sopra in rivoletti così uguali che paiono pettinati, e quel raggio di sole che vi cade trasversalmente laggiù nel laghetto, oh, è la più bella poesia che io abbia mai letto. Io direi che è un quadro, fece Jane. Una poesia è fatta di rime e di versi. Oh no! E Anna scosse la testa inghirlandata di fiori di ciliegio selvatico in maniera decisa. Rime e versi rappresentano la veste esteriore di una poesia, non sono la poesia, più di quanto le tue gale e le tue crespe siano te, Jane. La poesia vera è l'anima che è dentro di loro, e quell'angolino è l'anima di una poesia non scritta. Non capita ogni giorno di vedere un'anima, e tantomeno l'anima di una poesia. Chissà che aspetto ha un'anima, l'anima di una persona, voglio dire. chiese Priscilla con aria sognante. Quello, a parer mio, rispose Anna e additò un raggio di sole che filtrava tra i rami di una betulla. Solo con una forma, con dei lineamenti, naturalmente. Io mi immagino che le anime siano fatte di luce. Certune sono percorse da chiazze rosee e da fremiti, altre scintillano suavemente, come il chiaro di luna sul mare, altre ancora sono pallide e trasparenti come la nebbia all'alba. Una volta ho letto, non so dove, che le anime sono come i fiori, aggiunse Priscilla. La tua allora è un narciso dorato, intervenne Anna, e quella di Diana è una rosa rossa. Quella di Jane è un fior di melo, rosa e soave. E la tua è una violetta bianca con il cuore striato di rosso porporino, concluse Priscilla. Jane bisbigliò a Diana, che non riusciva a capire davvero di che cosa stessero parlando, ma come avrebbe potuto? Le ragazze tornarono a casa alla luce calma di un tramonto dorato, con i canestri pieni di fiori di narciso colti nel giardino di Esther. Il giorno dopo Anna ne avrebbe portato un fascio al cimitero per deporli sulla tomba di Esther. I petirossi fischiettavano tra gli abeti e le rane gracidavano negli stagni. Le valli tra le colline erano colme di luce color topazio e color smeraldo. Dopo tutto ci siamo divertite, disse Diana, come se alla partenza si fosse aspettata il contrario. È stata veramente una splendida giornata, fece Priscilla. Mi piacciono moltissimo i boschi, concluse Jane. Anna tacque. Guardava lontano nel cielo a occidente e pensava alla piccola Esther Gray. Capitolo 14. Anna, tornando a casa un venerdì sera dall'ufficio postale, fu raggiunta dalla signora Lind, come sempre gravata dalle preoccupazioni quotidiane. Sono appena andata da Timothy Cutton per chiedere ad Alice Louise se poteva venire ad aiutarmi per qualche giorno, disse. L'ho chiamata la settimana scorsa perché, anche se è lenta come una tartaruga, è sempre meglio di niente. Ma è ammalata e non può venire. Anche Timothy se ne stava lì seduto a tossire e a lagnarsi. Sono 10 anni che sta per morire e andrà avanti così 10 anni ancora. Questa gente non riesce nemmeno a morire e a farla finita. Non riescono a perseverare in nulla, neanche nella malattia, tanto da portarla a termine. È davvero una famiglia di inetti. E cosa accadrà di loro io proprio non lo so. Forse solo la provvidenza lo sa. La signora Lind sospirò, quasi a mettere in dubbio sull'argomento perfino la speranza provvidenziale. Marilla è andata di nuovo a farsi visitare gli occhi martedì, vero? E che ha detto l'oculista? Era molto soddisfatto, rispose Anna allegramente. Dice che sono molto migliorati e ritiene che il pericolo di perdere completamente la vista sia passato. Mi dice pure che non potrà mai leggere molto né far lavori fini di cucito. Come vanno i preparativi per la vendita di beneficenza? La società di mutuo soccorso stava organizzando una fiera con relativo pranzo e la signora Lind era l'anima dell'impresa. Vanno abbastanza bene. Oh, a proposito, la signora Allan pensa che sarebbe carino allestire uno degli stand arredandolo come una cucina del buon tempo antico e servire una cena a base di fagioli al forno, ciambelle, pasticcio e così via. Stiamo raccogliendo ovunque dei vecchi arredi. La signora Fletcher ci presterà i tappeti intrecciati di sua madre e la signora Balter delle vecchie sedie e zia Mary Shaw la credenza con gli sportelli a vetro. Credi che Marilla vorrà darci i suoi candelieri di ottone? E ci servono piatti antichi, tutti quelli che riusciamo a trovare. La signora Allan ci tiene moltissimo a trovare un piatto da portata di vera porcellana cinese a disegni blu su sfondo bianco. Sarà possibile? Ma pare che nessuno ad Avonlea ce l'abbia. Sai dove potremmo trovarne uno? La signorina Joseph Perry ne ha uno. Le scriverò chiedendole se può prestarvelo per l'occasione, disse Anna. Bene, vorrei che lo facessi. Credo che la cena sarà tra una quindicina di giorni circa. Zio Abe Andrew prevede pioggia e temporali per quell'epoca. E così abbiamo quasi la certezza che farà bel tempo. Il soprannominato zio Abe assomigliava ad altri profeti, almeno in questo, che in patria godeva di scarso credito. Nessuno infatti lo prendeva sul serio, giacché poche delle sue previsioni meteorologiche si erano mai avverate. Il signor Elisha Wright, che si considerava a torto o a ragione il personaggio più spiritoso del luogo, era solito dire che nessuno ad Avonlea si sognava di dare un'occhiata ai quotidiani di Charlottetown per leggere le previsioni del tempo. No, perché bastava chiedere a zio Abe come sarebbe stato il tempo l'indomani e poi aspettarsi l'opposto. Tuttavia, per nulla scoraggiato, lo zio Abe continuava nelle sue previsioni. Vogliamo che la fiera si tenga prima che finiscano le elezioni, continuò la signora Lind, perché i candidati verranno certamente a spendere un mucchio di quattrini. I conservatori già stanno dando bustarelle a destra e a manca, ragion per cui tanto vale, per una volta, dare loro una possibilità di spendere il proprio denaro onestamente. Anna parteggiava con fervore per i conservatori, in omaggio alla memoria di Matthew, ma tacque. Si guardava bene dal provocare la signora Lind in fatto di politica. Aveva una lettera per Marilla che recava il timbro di una città della Columbia Britannica. Forse è lo zio dei gemelli, disse tutta eccitata quando arrivò a casa. Oh Marilla, chissà cosa scrive. La cosa migliore è aprire e leggerla, tagliò corto Marilla. Un osservatore attento avrebbe detto che anche lei era eccitata, ma sarebbe morta piuttosto che darlo a vedere. Anna aprì la lettera e diede una scorsa al contenuto, un foglio piuttosto sgualcito e mal scritto. Dice che non può prendere i bambini questa primavera. È stato malato gran parte dell'inverno e il matrimonio è stato rimandato. Vuol sapere se possiamo tenerli fino all'autunno e allora forse sarà in grado di prenderli. Li teniamo naturalmente, vero Marilla? Non vedo cos'altro possiamo fare, rispose Marilla in tono brusco, anche se si sentiva segretamente sollevata. Comunque adesso non danno più un grande affare come all'inizio. Forse noi ci siamo abituate. Davy è molto migliorato. Oh, in quanto a buone maniere, sì, è migliorato, assentì Anna cautamente, come se non fosse disposta a fare altrettanto in quanto a principi morali. La sera prima Anna era tornata a casa da scuola. Marilla era uscita per recarsi a una riunione della società di mutuo soccorso. Dora era addormentata sul sofà in cucina e Davy, davanti all'armadio del salotto, stava beatamente ingurgitando il contenuto di un vasetto della famosa marmellata di prugne gialle di Marilla, la marmellata delle visite, come la chiamava Davy, al quale era stato vietato di toccarla. Aveva l'aria molto colpevole nel momento in cui Anna gli era balzata addosso e l'aveva allontanato in fretta dall'armadio. Davy Keith, non lo sai che stai commettendo veramente una cattivazione? Quando mangi quella marmellata mentre ti è stato detto di non toccare nulla di quanto si trova in quell'armadio? Sì, lo sapevo di far male, ammise Davy imbarazzato. Ma la marmellata di prugne è così buona. Ho solo dato una guardatina e mi è sembrata così appetitosa che ho pensato di assaggiarla. Ho infilato un dito. Anna emise un borbottio di disapprovazione. E l'ho leccato ben bene ed era così buona, persino più buona di come pensavo. Così ho preso un cucchiaio e ci ho dato dentro. Anna gli fece una paternale così grave sul furto della marmellata di prugne che Davy fu preso dal rimorso e promise, con molti baci di pentimento, di non farlo mai più. In ogni caso, in paradiso di marmellata ce ne sarà in abbondanza e questa per me è una consolazione, disse soddisfatto. Anna soffocò un sorriso. Forse, se ne avremo voglia, disse, ma cosa te lo fa pensare? Ma come c'è nel catechismo? Disse Davy. Oh no, non esiste nulla del genere nel catechismo, Davy. Invece sì, te lo dico io, insistette Davy. È proprio nella domanda che Marilla mi ha insegnato domenica scorsa. Perché dobbiamo amare Dio? Perché egli ci preserva e ci redime. Che significa preserva? È lo stesso che dire conserva? È un modo religioso per dire marmellata? Corro a bere un sorso d'acqua, disse Anna che soffocava dal ridere. Quando tornò, sudò sette camicie per spiegare a Davy che quella domanda e risposta del catechismo avevano un significato ben diverso. Beh, mi sembrava troppo bello per essere vero, disse alla fine Davy, con un sospiro di delusione. A parte il fatto che non so come si potrebbe trovare il tempo di fare la marmellata, se, come dice Lino, il paradiso è un lungo, infinito giorno di festa. Non sono sicuro di voler andare in paradiso. Credi che non ci saranno mai sabati in paradiso? Ma certo che ci saranno i sabati, Davy, e ogni sorta di belle giornate, e ogni giorno in paradiso sarà sempre più bello di quello che l'ha preceduto, fece Anna, soddisfatta che Marilla non fosse lì a scandalizzarsi di quei discorsi. Marilla, inutile dirlo, allevava i gemelli secondo il vecchio catechismo e scoraggiava al riguardo qualunque interpretazione fantasiosa. Davy e Dora imparavano un inno, una domanda di catechismo e due versetti della Bibbia ogni domenica. Dora li imparava, obbediente, e li recitava come una macchinetta, senza approfondirli e senza un vero interesse, meccanicamente. Davy, al contrario, era molto curioso e spesso poneva delle domande che mettevano in crisi perfino Marilla. Chester Sloane dice che in paradiso saremmo tutto il tempo senza far altro che andarcene in giro con abiti lunghi e bianchi a suonare l'arpa, e dice che spera di andarci quando sarà vecchio, dato che forse allora tutto questo gli piacerà di più. Intanto pensa che sarà spiacevole indossare degli abiti lunghi, e anche io la penso così, perché gli angeli uomini dovrebbero portare i calzoni. Chester Sloane si interessa molto a queste cose, perché i suoi vogliono che faccia il pastore. Deve fare il pastore perché sua nonna ha lasciato il denaro per mandarlo all'università e lui non può entrarne in possesso se non fa il pastore. La nonna pensava che avere un pastore in famiglia fosse una bella cosa. Chester dice che a lui non gliene importa molto per quanto preferisca fare il fabbro. Però vuole divertirsi più che può prima di fare il pastore perché pensa che dopo non potrà più divertirsi molto. Io non lo voglio fare il pastore, voglio fare il negoziante come il signor Blair e avere mucchi di canditi e di banane. Però mi piacerebbe anche andare in paradiso se mi lasciassero suonare l'organino a bocca invece dell'arpa. Pensi che sia possibile? Sì, credo proprio che sarà possibile. E questo fu tutto quello che Anna si arrischiò a dire in proposito.